buonasera a Radio Città Fujiko, anzi per meglio dire buonanotte, mi scordo sempre un po' degli orari, ma d'altronde sono un animale notturno, sì, anche se questa notte insomma particolarmente lento, visto che insomma mi sto facendo prendere dalle turbe invernali o pre-invernali, quindi come dire, sono un po' triste. Comunque, a parte gli scherzi, no? Max Macchia vi saluta appunto da 451 Frammenti Sonori in quella di Fujiko, in città Fujiko, e questa sera ascolteremo soprattutto suoni che potrebbero sembrare più che tristi, proprio definitivi e mortificanti, in realtà non lo saranno se vi farete, però, dietro questa avvertenza, ecco, che vi do, se vi farete cullare in una sorta di così di ninna nanna che si trasformerà magari anche da subito in una seducente, potremmo dire, ninia quasi diabolica, un po' di zolfo insomma uscirà probabilmente questa sera da Radio Città Fujiko, ma non vi preoccupate, tutta una faccenda molto molto affascinante, poi se vogliamo, e seducente appunto nel suo svolgersi e nel suo essere poi anche in un certo qual modo morbosamente lasciva, ma insomma non voglio usare troppi termini decadenti, visto che non si tratta esattamente sì di decadenza quella di questa sera di 451 Frammenti Sonori, si tratta per lo più di un viaggio dentro i meandri di un suono che una volta si sarebbe chiamato good vibration, quindi le buone vibrazioni delle psichedelie, che poi a un certo punto si trasformarono con Velvet Underground in termini pop con cattive vibrazioni, bad vibration probabilmente, quindi tematiche nere, tematiche legate al sadomaso, tematiche legate all'eroina, legate a forme di depravazione. Insomma, abbiamo un calendario che parte da lontano e soprattutto insomma un'agenda piuttosto ricca. E, sì, bad vibration, quindi un viaggio tra i meandri di appunto un suono che da più o meno gli anni 80 si è trasformato per varie insomma ragioni che magari appunto tratteremo, ragioni musicali e non solo, anche di estetica e anche di visioni appunto dentro le musiche, verso quel suono isolazionista e poi dentro quello che sarà il certo noise drone degli anni zero, fino ad arrivare appunto ai nostri giorni. Infatti saranno due puntate dedicate a queste cattive vibrazioni, che poi così cattive non sono, anzi per tanti versi vi porteranno anche molto molto lontano. E iniziamo probabilmente con il padre di questi suoni, se vogliamo insomma così per capire, per farvi capire, e parliamo insomma, arriveremo a un punto con questa trasmissione alla fine isolazionista, per poi nella prossima di 451 Frammenti Sonori continuare questo percorso fino ad arrivare ai nostri giorni, appunto con questa detta ambient, anche potremmo definirla tale, coniare in questa maniera insomma un termine che vagamente possa rispettare quello che sarà questo percorso industrial ambient, qualche un altro l'ha chiamata nel corso del tempo, sicuramente nei primi anni 80, addirittura nei fine 70, ma il cattivo seme c'è nei primi 80, l'ha seminato MB, Sucker Pelz, in esteso Maurizio Bianchi italianissimo, in quel di Milano, con collaborazioni anche piuttosto prestigiose, se non fossero insomma collaborazioni legate a guastatori sonori, come ad esempio l'epoca White House, ma anche insomma liaison con quell'ambiente della primissima industrial. Abbiamo qua in Italia uno degli esempi anche più longevi di quel suono che si è riverberato, proprio prendendo una delle tecniche più care di Maurizio Bianchi, con anche proprio una homemade di incredibile genialità, creatività, tutto fatto a casa con strumentazioni assolutamente spartane, ma proprio l'idea, tanto per citare insomma un altro grande dell'industrial della prima ora, come Richard Kirk dei Cabaret Voltaire, la musica è soprattutto fatta di idee, non, le tecnologie appunto devono essere utilizzate con le idee, perché sennò appunto diventano semplici soprammobili, oppure, come tante volte è successo nelle musiche tecnologiche, diventano una sorta di tappezzerie sonore o addirittura di show così legati a una sorta di così spettacolarità data dalla tecnologia. Tutt'altro Maurizio Bianchi, anzi proprio in morte della spettacolarità e della società dello spettacolo, Maurizio Bianchi faceva uscire dischi incredibili, cassette autoprodotte di veramente grande lungimiranza. Probabilmente non si poneva neanche tanto questo discorso insomma di allungamento delle sue posizioni, sia in termini di impalcatura teologica, vabbè, teologica no, l'affronteremo in un altro momento, Maurizio Bianchi, che diventerà anche testimone di Geova, ma è un'altra faccenda, e di impalcatura, volevo dire, ideologica, con quella sorta di nichilismo che però non l'allontanava dalla creatività, anzi portava un messaggio creativo anche piuttosto forte, come possiamo sentire appunto da queste prime registrazioni. Andiamo a prendere un lavoro edito in cassetta dell'82, ma addirittura nel 79, come Sacher Peltz, esce Maurizio Bianchi. Questo è uno dei primi suoni che poi diventerà quell'industrial ambient e quell'isolazionismo di fine anni 80 e primi 90. abbiamo ascoltato un frammento da una delle prime cassette di Maurizio Bianchi dedicata ai batteri, tra l'altro un'idea insomma che spesso insomma ci sarà dentro le musiche di Maurizio Bianchi, quelle delle forme di non soltanto batteriologiche ma proprio anche di morbo, ma soprattutto di morbo sociale. Prima accennavo a Bianchi anche come teorico, se vogliamo, di un certo industrial e anche di una sorta di negatività che veniva vista appunto come negazione dell'abbrutimento di massa, insomma, cercato e poi anche trovato proprio in quei primi anni Ottanta da un capitalismo che era purtroppo malauguratamente, visto che stiamo ancora avendo insomma quella grande ombra, insomma, ancora ci sovrasta. Comunque in quel periodo stava avendo il grande successo appunto il capitalismo in termini sistemici o di struttura, visto che è un termine che poco si usa, ma poi magari se qualcuno iniziasse magari a ragionare in termini strutturali forse qualcosina più si capirebbe. Beh, sicuramente non si arriverebbe ai livelli di Maurizio Bianchi, forse anche oltre, ma vabbè, non è tanto questo il fatto è soprattutto in termini di negazione appunto che Bianchi riesce a portare avanti tramite un suono ottundente, un suono che va a cercare appunto tra i meandri di suoni anche che sono esistenti. In effetti poi con Sucker Pelz sarà molto più concretista e arriverà proprio a dei collage, insomma, come fece la buon vecchia scuola francese appunto di Pierre Ri e di Pierre Schaeffer, però con quel senso appunto industrial che era già maturo nei primi anni Ottanta. Abbiamo mischiato Bianchi, che potremmo insomma definire una sorta di padre di questo ambient negativa, di questo suono lancinante, di questo appunto ambiente che si va a formare, se vogliamo a deformare, anche visto che per certi versi è come sovrapporre in un certo qual modo l'ambient di Braianino e quelle faccende in nuce musicali, sonore, che stavano tanto nei primi esperimenti di Cabs, Cabaret Voltaire e di Throbbing Gristle e altri grandi che in quei mesi stavano lavorando a un suono che diventerà poi post-industriale e diventerà di fatto insomma il prodromo poi dell'isolazionismo, ovvero sto parlando dei veri e propri padri di questo suono, insieme probabilmente a Bianchi, insieme a Affair Trio, che non troveremo direttamente come Affair Trio questa notte, ma con una progettualità di McKenzie, tra l'altro anche piuttosto interessante per anche il rimescolamento delle carte dentro la stessa avanguardia industrial o post-industrial. E Zoviet Friends venivano dall'Inghilterra, anche se il nome insomma ci porta in quel di Francia, ma situazionisti spesso e volentieri, anche loro con una forte idiosincrasia come quella di Maurizio Bianchi, anche qua una negazione che parte da delle musiche etniche impossibili, quindi non le possible music di John Hassell, di Brian Eno, ma le impossible music di Zoviet Friends, e quindi delle etnicità inventate oppure deformate, proprio perché deformate poi di fatto dal capitalismo, dall'aggressività appunto di un sistema che sradica appunto anche culture millenarie, senza per forza insomma citare il buon Pasolini. Comunque Zoviet Friends di certo adoperano con materiale anche etnico, ma L'abbiamo sentito anche qua, e questa trasfigurazione che porterà poi i padri dell'isolazionismo verso sonorità veramente inusitate per anche i primi anni Ottanta dentro l'industria, se non per Maurizio Bianchi e per Afel Trio e pochi altri, quelli di questa sera insomma sicuramente, e Jovet Friends sicuramente ebbero vari sodali in termini forse questo insomma l'union trade union di eticità deformate, se non appunto di vere e proprie ambient che andavano a formare quello che poi sarà il nucleo centrale sonoro delle sperimentazioni isolazioniste. E partendo da questo, appunto, da una deformazione diciamo etnica ambient, Nocturnal Emission faranno grandi lavori, li sentiamo insieme a Cranioclast, altro grande genio, anzi altri grandi geni non più inglesi ma tedeschi, Cranioclast, che deformeranno la materia concretista con grande fantasia, con anche qua uno spirito assolutamente dettorializzato rispetto alle musiche che vanno a trattare, una sorta di ipnosi anche che parte soprattutto da Soviet Friends, che sarà un po' l'altro trade union di questa corrente che ancora non esisteva come tale, la definiamo noi adesso, anche facendo un po' di fatica. Nel senso che troviamo i prodomi, appunto, come dicevo prima, di quel suono che è stato chiamato brillantemente isolazionista, che è un po' stride dire brillantemente isolazionista, comunque per capirci il termine sicuramente ha illustrato bene e ha definito molte musiche insomma degli anni 90. E dentro insomma il linguaggio di Cranioclast, l'ipnosi, una sorta anche di surrealismo sonoro cercato e trovato, va di pari passo in questa ricerca incredibile di suoni che inventano, forse anche qua, perdonatemi un'altra citazione, così riprendendo forse il discorso di Eskimo, di Residence, l'impossibilità di una musica etnica, di una musica folclorica, e quindi la costruzione laboratoriale, ma volutamente anche sottolineata come laboratorio, anche attraverso appunto un suono che si fa decisamente homemade e decisamente trattato appunto in maniera casalinga. Cranioclast e poi Nocturnal Emission, così a definire quello che poi di fatto insomma diventerà il death ambient dell'isolazionismo. a sfumare così nel vuoto per poi dare quello svuotamento, sì, di fatto, insomma, sonoro, che anche, se vogliamo, sorta di provocazione non più cageana, ma provocazione, insomma, legata soprattutto a quella negazione, come vogliamo chiamarla questa sera, che molti industrial portavano dentro la loro progettualità, negazione ad esempio per quanto riguarda Nocturnal Emission, che veniva dal lavaggio del cervello, brainwashed, come amava definirlo Nigel Ayers, appunto lui che ha formato e ha portato avanti, insomma, questo progetto, seppur decisamente aperto, comunque scrivibile, insomma, a lui, e quello che è il controllo delle masse, quello che è anche la lettura eterodiretta della storia, e quindi anche qua è un ribaltamento, un deturnamento del valore folclorico, quasi appunto in una sorta di ipnosi, anche come Cranioclast, ascoltati prima con un gioiello, con Crystal, Odds of France, tratto le primissime loro faccende in 12 pollici, o addirittura Maurizio Bianchi che deturpava quello che era già tra le corde, insomma, di molta industrial dell'epoca, la primissima industrial che Maurizio Bianchi appunto ha saputo trattare, rendendo ancora più grigia quell'aria, grey aria, che appunto è stata definita tale anche da un certo Lastmord, che cura appunto per Mute Grey Area tutto quel meraviglioso e incredibile giro di ristampe, di lavori editati per le prime volte, e che provengono appunto dalle sperimentazioni industrial, dal noise inglese, non solo, assolutamente gioielli veramente sonori per ambizione, insomma, nel disegnare musiche che mai come altre sono riuscite a essere estetica di una società, insomma, che di fatto decadeva, seppur, insomma, esteticamente negli anni 80, insomma, c'era questo forte senso, insomma, estetico, che dato da un edonismo anche piuttosto strumentale, e che portava appunto anche a sviare, in questo senso Nocturnal Emission mettono anche proprio in crisi quello che appunto la società dello spettacolo, soprattutto quella degli anni 80, così brillante nel suo farsi fusion, nel suo farsi adesso citando appunto Maurizio Bianchi, Milano da bere, ecco, quando invece magari per tanti aspetti erano a Milano, sì, ma da bere, e quindi uno svelamento in questo senso, e oltre che uno svelamento, poi una quindi un'operazione, insomma, compiuta sul corpo vivo, insomma, sociale e sonoro, e appunto il concretismo che c'è in tante di queste progettualità, veniva anche appunto reinventato un suono, o inventato proprio di sana pianta, questo suono Lastmord lo farà diventare quella che fu definita dark ambient, industrial ambient, lo accennavo, insomma, a inizio di trasmissione, e potremmo definirla una sorta di cinema degli abissi sia interiori che, perché no, anche infernali, ma un inferno non più, insomma, grottesco e così un po' anche da classica iconologia, ma realtà, insomma, un inferno sociale, un inferno immaginario che diventa appunto poi materia sonora e di grande, insomma, capacità espressiva e descrittiva anche della società e del suo mutamento e della sua decadenza, di fatto, insomma. Spesso venivano tacciati, insomma, di essere decadenti loro, in realtà, insomma, era ben altra l'operazione, un'operazione chiaramente di shock anche legato a immagini e a immaginari assolutamente anneriti. Ci andiamo a ascoltare Lastmord dal suo Heresy, appunto, anche qua con questi svisamenti, queste deformazioni volute anche parareligiose, a ricercare anche qua, forse in chiave surrealista, forse un momento ancora di possibile liberazione dentro Lastmord, o perlomeno di emancipazione attraverso, appunto, la surrealtà, attraverso l'alterità portata, insomma, a livelli di grande visionarietà. Lastmord, appunto, dal suo Heresy.